Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome? Elisabetta Gardini. Età? 59. Nata? Padova. Eletta in? Collegio Nord-Est. Con quanti voti? Quasi 70.000. Partito politico? Forza Italia. Gruppo politico? Partito Popolare Europeo. Segni particolari? Di non avere segni particolari. Quante lingue parla? Diciamo italiano, inglese e francese, abbastanza, nell'ordine di competenza. Competenze europee in 10 parole. Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, mi occupo da sempre di ambiente, di sanità pubblica e sicurezza alimentare, da sempre, cioè dal 2008. Sono anche presidente del Forum delle Donne con le donne latinoamericane. Le leggo un titolo dal Corriere della Sera. I trafficanti di uomini nel 2015 hanno intascato tra i 3 e i 6 miliardi. Questa sicuramente è una delle priorità europee, perché a livello nazionale non riusciamo mica a bloccarli. Però bisogna far capire a qualcuno che per bloccarli dobbiamo rinunciare poco alle nostre libertà. Dalla Stampa, l'UE mette sotto esame le frontiere. Perché il problema delle frontiere è il problema principe. L'Europa accoglie i rifugiati ma non accoglie i clandestini. L'Europa supera con il fiatone i test elettorali. Cosa salvare e cosa cambiare? Oddio, salvare sicuramente la libera circolazione delle persone, la libera circolazione delle idee, delle merci, dell'economia. Dobbiamo cambiare la rigidità economica, dobbiamo cambiare l'euro che, così come è stato costruito, lascia noi in deficit eterno e la Germania in surplus eterno. Però dobbiamo salvare l'idea originale, quella di un continente che dà benessere e pace ai propri cittadini. In Europa ci si occupa di tutto, dai macro ai micro temi. Come si fa ad essere preparati su ogni cosa? In realtà ci si specializza su alcune cose, ci si divide perché si è una squadra e poi ci sono anche degli esperti di riferimento. Matrimonio per le coppie gay, sì o no? No. Adozione per le coppie gay, sì o no? Assolutamente no. Alleanze con la Lega Nord, sì o no? Assolutamente sì. Un voto a Salvini da 1 a 10. Urca. Beh, per la Lega un bel 8, perché li ha portati a crescere di 10 punti. Poi in alleanza lo stiamo testando. Ad un certo punto della sua carriera ha preferito Berlusconi a Shakespeare. Rimpianti? No, perché viviamo in un paese che va cambiato e purtroppo non lo cambi con Shakespeare. Cosa voleva fare da piccola? Da piccola ero una sognatrice. Le sue priorità politiche per il prossimo anno? Sicuramente l'immigrazione. Il suo peggior nemico? Il tempo non basta mai. Il suo più grande alleato? Ma dire sempre il tempo, perché è galantuomo e alla fine rimette le cose a posto. YouZone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.